America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24, da New York Mario Platero. Grandi progressi sul fronte della riduzione dei contributi sociali in busta paga, un boost, una spinta per la crescita dell'economia americana. Una notizia che mi sta molto a cuore, mi hanno consegnato oggi a Firenze, non c'ero fisicamente, è andato un collega, Cesare Peruzzi, il nostro corrispondente appunto da Firenze, un premio giornalistico, il premio Amerigo 2011 per la radio, per questo programma che voi ascoltate tutti i giorni. Ne approfitto per ringraziare Valeria Coffaro, che è la producer di questo programma, è sempre qui dietro le quinte, ma oggi vi faccio ascoltare anche la sua voce. Valeria, buongiorno. Buongiorno. E ringrazio anche la squadra di America 24, perché come sapete abbiamo anche un sito internet e la squadra di Radio 24 a Milano. E ringrazio naturalmente tutti voi ascoltatori che evidentemente avete trasmesso messaggi di apprezzamento. C'est pas simplement l'Europe qui sombrait dans la catastrophe, c'est le monde entier, avec l'inimaginable que représentait la possibilité de faillite. La turbolenza dei mercati si è spostata in Francia. Le agenzie per la valutazione di credito minacciano un downgrading del debito francese da triplo A a doppio A. Ormai ci sono battute di ogni genere. Qualcuno su Twitter scrive France con due A, appunto. Si dà per certo che questa cosa succeda in tempi brevi. La borsa francese ieri ha perso il 3%. Una volta di più ci si domanda come mai c'è questo straordinario potere di queste agenzie per la valutazione del credito. Proprio recentemente mi è capitato di fare una ricerca che voglio condividere con voi ascoltatori, che mette l'accento proprio sull'inaffidabilità di queste agenzie per la valutazione del credito, e mi riferisco in particolare al fallimento di MF Global, una società finanziaria gestita da John Corzine, che è stato senatore americano, è stato co-amministratore delegato di Goldman Sachs e poi è stato addirittura governatore del New Jersey. Dunque, nella tradizione delle porti girevoli americane, cosa fa Corzine? Beh, diventa capo di questa società finanziaria dopo che mancava da oltre 10 anni dal mercato. Organizza delle operazioni molto aggressive. Abbiamo saputo che Corzine era direttamente coinvolto nelle scelte principali e strategiche dell'azienda. La più importante qual è stata? Fare un leverage, una leva, addirittura in alcuni casi da 35 a 1, per acquistare posizioni aggressive sul debito europeo a breve a 3 anni, nella speranza che potesse in qualche modo riportare a casa i soldi. Come funziona l'operazione? Un'istituzione finanziaria come la sua, che ha un capitale piuttosto solido, prende delle posizioni a prestito, va dalle banche, le banche gli danno a un tasso molto vantaggioso i quattrini di cui ha bisogno. A questo punto l'istituzione con questi quattrini acquista le obbligazioni, i titoli sovrani europei, e in questo caso ha acquistato soprattutto titoli sovrani italiani, nella speranza di poter guadagnare sulla differenza, perché le obbligazioni italiane pagano un tasso di interesse superiore a quello a cui l'istituzione finanziaria si è indebitata. Ecco, fino a qui il ragionamento non fa una grinza, se non che c'è una leva eccessiva. Sappiamo, dopo quello che è successo nel 2008, che non era più immaginabile o possibile prendere delle posizioni con una leva così forte. Eppure Corzine lo ha fatto, sicuro del fatto suo. Ho parlato con gente informata, diceva ai suoi colleghi un po' sospettosi. Mi hanno garantito che l'eurozona sarà a prova di bomba. Abbiamo visto che non lo è stata, e dunque Corzine a un certo punto è stato costretto a dichiarare fallimento della sua società. Che cosa ha fatto però? A un certo punto, disperato perché non poteva più coprire le operazioni a margine, ha prelevato i soldi che dovevano essere intoccabili di clienti che avevano depositato contanti per una cifra complessiva di $1 miliardo. Sembra che abbia usato questi soldi per coprire queste posizioni, per poter prolungare questa possibilità di recuperare. Anche quei soldi sono stati bruciati e dunque ora sono spariti. Arriviamo alle agenzie per la valutazione del credito. Questo è il punto chiave di un confronto che ho fatto in seguito a una ricerca che abbiamo condotto qua in redazione. Moody's, come sappiamo, e Standard & Poor's, se per quello, attaccano i debiti sovrani europei e in particolare il debito sovrano italiano, e così facendo producono un po' una reazione azioni a catena che porta le borse a peggiorare, che porta lo spread ad aumentare, un po' quello che è successo ieri, per esempio, in Francia. Ma cosa fanno queste agenzie per la valutazione del credito? Chiudono un occhio, anzi tutti e due, quando si tratta di peggiorare il voto di MF Global. Ecco, questo secondo me è un fatto scandaloso, non è ancora andato all'attenzione dei grandi media. Spero che ci siano delle inchieste per capire come mai, se ci sono state delle intimidazioni o meno, ma il risultato è che Moody's dà soltanto il 28 di ottobre un downgrading alla posizione di MF Global. MF Global fallisce il 31 di ottobre. L'altra domanda ovvia in tutto questo è: dov'era Pricewaterhouse, PricewaterhouseCoopers, che è invece l'agenzia contabile? Siamo anche passati attraverso gli scandali contabili. Ebbene, è vero che a un certo punto del 2010 i contabili dicono alla MF Global di menzionare questa loro esposizione piuttosto forte sul debito sovrano europeo, ma quando lo fa MF Global? Intanto nel rapporto annuale del 2010, che viene consegnato nel 2011, nel maggio del 2011, e lo fa in una nota illeggibile a piedi pagina. L'aspetto scandaloso in tutto questo, secondo me, è che queste agenzie continuano ad operare con straordinaria latitudine, con straordinario potere. Di questo voglio parlare brevemente con Claudio Gatti, che è in redazione qui con me. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Qual è la tua impressione? Beh, l'esperienza della bancarotta di MF Global ha dimostrato ancora una volta, come quella della Grecia e molte altre, che le agenzie non ce la fanno a seguire gli eventi, a svolgere uno dei compiti principali che hanno, è quello di segnalare rischi e problemi prima di una crisi, e questo porta a una reazione forse eccessiva dopo la crisi, che li spinge a reagire in modo forse anche troppo pesante. Ecco, ma non dovrebbe esserci un controllore di queste agenzie? E soprattutto, qui non è soltanto questione di negligenza, secondo me c'è qualcosa di più. Beh, la crisi finanziaria ha messo in evidenza il conflitto di interessi. Queste agenzie sono pagate da chi riceve il rating. Come ha detto un editorialista del New York Times, è come se gli studi di Hollywood pagassero i critici cinematografici per le loro recensioni. Tu avevi fatto una chiacchierata, mi pare, con Volcker di queste cose. Qual era la sua impressione? Lui ha detto una delle soluzioni potrebbe essere quella di aumentare il numero delle agenzie. Ce ne sono solo tre. Lui dice dovrebbero essere di più, magari anche specializzate. Ma non potrebbe esserci a un certo punto una rivoluzione degli operatori o del mercato o dei risparmiatori che dicono: vabbè, voi dite quel che volete, tanto qui noi andiamo avanti per la nostra strada? È possibile, ma tutti hanno bisogno di un punto di riferimento, un barometro, e quindi le agenzie servono anche per quello. Il problema è che nessuno ha trovato un modello economico perché nascano nuove agenzie pagate in modo diverso, in modo che non esista il conflitto di interesse. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Secondo Forbes, Lady Gaga è la cantante più pagata del 2011, $90 milioni. Di Lady Gaga, The Edge of Glory. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.